Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 34. Circa le qualità di Keter, Chochmah, Binah, Zeirampin e Malchut. Keter è sempre, ha tutto in sé. 100% di luce in sé. Effettivamente il divino nella luce in sé stesso nei Kelim. Parleremo sempre di luce nei Kelim. O Kelim senza luce. Ma non di luce senza Kelim. Non possiamo parlare di luce senza Kelim. Non parliamo mai riguardo la luce in sé. Quando la luce non è dentro i Kelim, noi non possiamo assolutamente comprenderlo. Quello è proprio come Ein Sof. Se io non lo comprendo dentro di me, che esso è Ein Sof. Pertanto noi impariamo i mondi nella Kabbalah mentre non lo sperimentiamo ancora. Impariamo i mondi spirituali. Un mondo è una forma di grossolano di luce e quindi è comprensibile. Quando è il primo piccolo grossolano di luce? Che esso può essere compreso. Tutto questo impareremo. Tutte le luci sono già nei Kelim. Nei mondi superiori è nell'uomo. E nell'uomo è l'anima, la luce del Kli. Nell'uomo è chiamata l'anima. Quello che noi chiamiamo anima. Neshama. Nell'uomo si chiama anima, ma la chiamiamo con le stesse parole nei mondi superiori. Quali sono i mondi superiori? Sono gradi più alti di luce o un grado minore di lineamenti grossolani. Ma tutto può essere sperimentato dentro noi stessi. Tutti questi mondi, ad eccezione del mondo Adam Kadmon, il primo di una serie di cinque, il primo grossolano. Ma come potrebbe il cabalista dare il nome al mondo Adam Kadmon se l'uomo non può sperimentarlo? Ovviamente, in qualche modo è un piccolo grossolano di luce. Ma non è permesso che noi ne parliamo. Perché no? Perché è prima della creazione di Adamo. Lui è dopo la creazione. dopo l'inizio della creazione, ma ancora prima della creazione dell'uomo. Si tratti quindi solo di parlare. Ma il cabalista potrebbe derivarne da questo il principio. Dalla mia carne vedrò il divino. Vedi il divino. Questo è il principio. Un principio molto importante. Ma come potevano i cabalisti progettare certe cose su qualcosa che era così alto? Perché nulla esiste nel basso che non esiste nel più alto. Tutto può essere derivato. Parleremo un po' di Adam Kadmon, ma non nel principio. Forse quando siamo molto più avanti nel nostro studio. Non come fanno oggi i cabalisti, che iniziano con Adam Kadmon. Assurdità assoluta. È possibile, ma non aiuterà in alcun modo. In quei cinque sfirot noi possiamo esprimere tutto. C'è la conformità con i cinque sfirot. Perché non possiamo parlarne? Keter corrisponde a Adam Kadmon, il primo di una serie di grossolanità della luce da Ein Sof. Adam Kadmon, Keter. Non possiamo comprendere Keter in nessun luogo, né in nessun mondo, fino a Gmartikun. Keter è troppo sottile per comprendere. Quindi Chochmah, che corrisponde con il mondo Azilut. Studieremo il mondo Azilut, Chochmah Azilut, che è il mondo di correzione. E noi pure lo sperimenteremo. Ogni uomo deve costruire questi mondi dentro di sé. Noi non contiamo Adam Kadmon. Indirettamente ha effetto su di noi, ma non possiamo sperimentarlo con le nostre frequenze terrene. Ma certamente ha effetto su di noi. Solo noi possiamo arrivare a metà strada del mondo azzurro. Con i nostri punti di forza possiamo venire a metà strada. Non c'è bisogno di andare oltre. Il mondo di correzione è azilut. Quindi ogni Chochmah, in ogni Chochmah è sempre azilut. Dipende su quale fase. Binah è sempre Binah. Binah è sempre Briah in Briah. È la qualità di Briah. Non abbiamo bisogno di fare disegni in ogni Binah, ovunque è Briah. E viceversa. Esiste anche Brillat nel vero Brillat. Nella scala generale delle forze esiste anche un Brillat che è realmente Brillat nell'intera creazione o nell'uomo. Ma c'è anche Brillat ovunque. In Asia esiste anche Brillat. Quindi ogni Bina ha quel Brillat. Esegiran Pin e Yetzirah. In generale, il mondo Yetzirah. Sono tutti mondi. Cosa significano i mondi? Ci sono Sfirot e ci sono mondi. Esegiran Pin è una sfera, Yetzirah, è il mondo. E ci sono Parzufim. Queste tre cose esistono nello spirituale. I mondi sono, diciamo, una grande dimensione, ma anche in ogni uomo, che corrisponde con il suo Chetero Atzilut che corrisponde con Chochmah, la stessa forza. Keter corrisponde con il mondo Adam Kadmon, Chochmah con il mondo Atzilut, Binah con il mondo Briah, Zeiran Pin con il mondo Yetzirah e Malkut con il mondo Yet Asiyah. Poi arriva un'estensione da Assia verso il basso. E questo è il nostro mondo, l'esperienza, i punti di forza del nostro mondo. Solo una piccola luce viene in giù a noi. Quella piccola luce si chiama Nerdakik. La luce non viene, ma viene data ad ognuno di noi. Ma dobbiamo confermare noi stessi di essere in grado di riceverla. Questo lo facciamo rendendoci piccoli e non quando ci sentiamo come King Kong. Quindi, quando possiamo ricevere, con ogni fase arriviamo al Creatore. Tu non hai bisogno di attraverso ogni cosa. Anche quando fai un piccolo passo in Asiyah, tu ricevi. Puoi vedere il Superiore, il Creatore, il Re, nella sua qualità di Malchut e Asiyah. De è arameico e significa di. Riceve la sua radiazione dallo stesso re solo nei suoi vestiti di Malchut e Asiyah. Sperimenti l'Eterno, l'Infinito, ma delle forze di Malchut de Asiyah. Una persona non ha bisogno di essere un miliardario per provare cosa vuol dire guidare una macchina. Uno guida una Rolls Royce e un altro una Fiat. Entrambi su macchine diverse hanno guidato. O due persone escono per mangiare, uno va in una caffetteria e l'altro va in un ristorante di lusso. Entrambi hanno mangiato, sono pieni. Qual è la differenza? La differenza è cosa metti nella tua bocca. Ma quando scende nel tuo tratto digestivo, la differenza è sparita. Tranne per il prezzo. Quando è nel tuo tratto digestivo, non c'è assolutamente alcuna differenza. Entrambi sono soddisfatti. Lo stesso è con il Malchut de Asiyah. Tu sperimenti l'infinito totale. Sperimenta l'infinito, la relazione con il Re. Ma essa indossa come se fossero dei jeans invece della sua veste regale. C'è una differenza? Finché vedi un re, parli con il re. Egli si veste in jeans, per così dire, riguardo ai mondi superiori. Ovviamente qui è un miliardo di volte più di quello che possiamo immaginare. Se solo potessimo già sperimentare il primo grado di Asiyah. Quindi tutti questi punti di forza, Keter, Chokhmah, Binah, Yerapin e Malchut, e nei mondi che sono mondi significano dimensioni più grandi, kilim più grandi, unità più grandi, ma tutti possono essere sperimentati dentro di noi. E oltre a questo abbiamo anche qualcosa, una certa unità chiamata Parzufim. Ci sono Sfirot, Keter, Chokhmah, eccetera. Ci sono mondi, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiyah. E ci sono Parzufim. Parzufim è plurale per Parzuf. Parzuf significa una certa consistenza di cinque punti di forza, proprio come nello Sfirot, per cui ogni forza ha in sé 10 Sfirot, five of 5 Sfirot. Keter, noi lo chiamiamo Arihantin. E significa faccia grande. Zeyrampin significa piccola faccia ed è un po' Chokhmah. Arich significa molto Chokhmah. Chokhmah è Abba e questo è padre. E Binah è Ima e questa è madre. Chokhmah e Binah insieme sono Abba e Ima. Abba e Im. Ve significa E. Zeyrampin è il figlio e Malchut è la figlia. Zeyrampin e Malchut insieme sono chiamati Zon. La Z sta per Zeyrampin. E la N sta per Nukva, una femmina, partner, che verrà spiegata in seguito, che è Malchut. Arihantin è come se fosse solo un maschio, da dove viene la luce Chokhmah. E Abba Yima, il padre e madre, superiore, da cui tutti noi riceviamo la nostra luce. Naturalmente viene da Rihanpin, dalla forza Chokmah, ma il padre e ma ma la madre superiori sono i luoghi da cui riceviamo ogni cosa. Riceviamo da Abba Chokmah, il padre, a cui rivolgiamo le nostre preghiere. Zeirampin e Malkut sono i bambini e sono anche maschio e femmina. Chokmah e Binah sono maschio e femmina, ma sono perfetti l'uno con l'altro nell'infinito. Abba e Vehima si trovano sempre nella perfezione. Zeirampin e Malkut sono a volte nella perfezione l'uno con l'altro e a volte non lo sono. Tutto è iniziato con Keter. I Kelim abbiano bisogno di diventare più grandi per ricevere la luce e la distanza è necessaria per ridurre la luce. Fare più piccola la luce, rendere più ampio i chelim. Chelim è plurale, e perciò i chelim. È anche un tipo di correzione. Arihampina ha anche una femmina, ma lei non è separata da lui. Loro sono come potenzialmente in lui. Questo si intende quando la Torah dice: il primo uomo fu creato come maschio e femmina, come uno. Arihampin è maschio, ha in sé la sua stessa propria femmina. Il suo maschio e la sua femmina sono come uno, in uno. Lei non è separata da lui. E non separerà mai. Abba e Ima sono già un po' separati. Entrambi hanno il parzuf. Il parzufino. Parzuf Abba e Parzuf Ima. Non realmente separati, ma ancora un po'. Stanno insieme, ma c'è una piccola espansione di Kelim. Espansione i Kelim sono un po' più larghi e grandi per ricevere la luce, e questa è la correzione. Più grande e più largo. Esiste una certa forza di Abba e ha in sé anche quei cinque, Keter, Chokmah, Binah, Zeirampin e Malchut. La luce viene coperta sempre di più. Quindi Zeirampin e Nukwa sono fianco a fianco come Zeirampin, ma Zeirampin è sempre un po' più alto ed entrambi hanno Keter Chokmah Binah Zeirampin e Malchut. E poi viene il nostro mondo. Ovunque sono esattamente gli stessi parzufim. E cinque parzufim fanno un mondo. Cinque sfirot fanno un parzuf. Cinque parzufim fanno un mondo. Tutto esiste di cinque, solo unità diverse. Spiegheremo in seguito che tipo di luce è dentro e sulla relazione tra le lettere e i numeri e i nomi del Creatore. Quindi abbiamo Keter de Keter, Chochma de Keter, Bina de Keter, Zeiran Pin de Keter, e Malchut de Keter. Questo è un parzuf. Lo stesso con Keter de Chochma, Keter, Chochma de Chochma, Bina de Chochma, Zeiran Pin de Chochma, e Malchut de Chochma. Anche questo è un parzuf. E lo stesso in Binah, Zeiran Pin e Malchut fa cinque parzufim. A questo punto finisco la registrazione audio del libro Corso Basico di Kabbalah. E questo perché nella prima parte vengono forniti i più generali concetti e approcci cabalistici per uno studio più approfondito della Kabbalah. Ciò fornisce un bagaglio sufficiente per ulteriori approfondimenti sulla seconda parte del libro Corso Basico di Kabbalah. Ma già leggendo il testo stesso e lavorando su di esso. Buona fortuna.